America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Lawmakers will tackle the fiscal cliff. You're going to hear a lot about it. What is the fiscal cliff? The fiscal cliff is the combination of tax increases. Beh, avete sentito, questa cacofonia fiscal cliff era diventata un'ossessione ormai per molti mesi, la rupe fiscale, la paura del precipizio. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa in collegamenti in diretta, sul giornale, articoli, ne ha parlato tutto il mondo. Il fiscal cliff, come sapete, è stato superato, i mercati hanno festeggiato l'avvio di un nuovo anno con delle corse al rialzo in borsa e dunque sappiamo che questo pericolo è stato archiviato. Ma sappiamo anche dal dibattito che è continuato fino alla fine della settimana scorsa, fino a venerdì, quando già nel nuovo congresso che si era insediato appena il giorno prima, giovedì 3 marzo, si creava già una staffetta, la staffetta per il secondo confronto, per il secondo binario, per l'altra metà del fiscal cliff che ancora non è stata risolta, quella dei tagli alle spese, quella del tetto sul debito, la possibilità di uno shutdown del governo americano, di una chiusura del governo americano. Tonight we've done that, thanks to the votes of Democrats and Republicans in Congress. Il presidente Barack Obama, il presidente che tutti direi all'unanimità hanno consacrato come il vincitore di questa battaglia. Vorrei oggi, lunedì, la giornata in cui si riaprono i mercati, si riapre la prima settimana completa in questo 2013, fare un piccolo punto su quello che è successo la settimana scorsa, su quello che succederà. Vi ho detto subito, Barack Obama ha vinto, ha cercato di mettere a punto e a frutto l'arte del possibile, cioè, come vi dicevo, il compromesso. Quali sono i punti essenziali di questo accordo che è stato raggiunto sulla parte fiscale, cioè sulla prima metà? Beh, intanto il compromesso è stato raggiunto su una aliquota del 39,6%, cioè un aumento del 4,6% rispetto all'aliquota del 35% per i redditi più elevati. Quali sono questi redditi più elevati? Beh, sono i redditi al di sopra dei $400,000 per gli individui e di $450,000 per le coppie. Al di là di questo reddito ci sarà un aumento fiscale. Tutti gli altri americani non avranno nessun aumento. Si punta ancora in America sulla necessità di stimolare in qualche modo l'economia. Ci sono state poi altre misure, non ci saranno una serie di deduzioni che una volta erano consentite sempre per i redditi superiori ai $450,000, sempre per quei redditi l'aliquota sui guadagni di capitale passerà dal 15 al 20%, ma per gli altri resterà al 15%. Insomma, stiamo parlando comunque di aliquote, di tasse, di aumenti ragionevoli. Cosa ha ottenuto Barack Obama in cambio? Beh, ha ottenuto intanto che i lavoratori americani potranno continuare a ricevere per 3 anni sussidi alla disoccupazione. Questo è un punto molto importante, i repubblicani non volevano darlo. Ecco, attorno a questo pacchetto, attorno a questo compromesso che è stato raggiunto al Senato, si è consumata però una battaglia durissima, una battaglia che ha visto addirittura la spaccatura del Partito Repubblicano. What has the Senate done? When is Harry Reid going to put forward his ideas? When is the Senate going to act? When is it that they're going to show the American people they're willing to do the job that they were sent here to do? Eric Cantor. Beh, Eric Cantor è il capo della maggioranza repubblicana alla Camera, è stato la bestia nera dell'accordo, ha cercato fino all'ultimo di far deragliare quello che sembrava essere per la prima volta in un'atmosfera di dialogo un compromesso plausibile e equo, questo compromesso che è stato raggiunto al Senato. Eric Cantor è andato direttamente contro il suo presidente, il presidente della Camera John Boehner, che era favorevole a questo piano del Senato e ha creato, devo dire, per alcuni momenti, perché sono stati giorni in cui è stato un po' come essere sull'ottovolante, prima l'America sembrava precipitare nel burrone, poi improvvisamente sembrava che le cose andassero bene, poi di nuovo nel burrone. La verità è che se da una parte ha vinto Barack Obama, dall'altra abbiamo visto quanto indebolito sia uscito dalle elezioni di novembre il Partito Repubblicano, perché al di là dell'importante dimostrazione di unità che abbiamo visto al Senato, dove Il compromesso è passato con 89 voti favorevoli e soltanto 8 voti contrari, quindi con una larga maggioranza di repubblicani. Alla Camera abbiamo visto la variabile impazzita della spaccatura del Partito Repubblicano con l'estrema destra guidata dai tipartisti, guidata da Eric Cantor, decisa appunto, come vi dicevo, a far deragliare questo progetto. Alla fine hanno prevalso le forze della ragione. Come è stato il voto alla Camera? 257 hanno votato a favore, 167 hanno votato contro, ma è interessante vedere come la composizione di questo voto sia diversa rispetto a quella del Senato, perché soltanto 85 repubblicani hanno votato coi democratici, 151 repubblicani hanno votato contro e si sono uniti ai 16 democratici, anche loro contrari a questo compromesso. Ecco, emerge in qualche modo un movimento centrista, come vi dicevo, una forza della ragione, il tentativo di un dialogo. Purtroppo, secondo me, questo dialogo si fermerà alla settimana scorsa. Già da oggi, già da domani, già dai prossimi giorni, il nuovo congresso tornerà a combattere su scadenze imminenti e su cui ci sarà una battaglia feroce. So the House has done its job, and I hope the Senate will do theirs. And if they don't like our version of cut cap. John Boehner, il leader della Camera, è stato rieletto il 3 gennaio, la settimana scorsa si è insediato il nuovo congresso, in nottata è stato subito eletto, confermato alla presidenza della Camera, qualcuno temeva che non ce la potesse fare, e credo però che a questo punto Boehner cercherà di riunire il suo partito e ci sarà una battaglia su tre scadenze molto importanti. Questo è il futuro, perché se la settimana scorsa l'America ha rischiato di cadere al di là del precipizio fiscale, se non ci fosse stato un accordo sulle tasse, l'altra metà, e cioè un accordo sul disavanzo, tagliare le spese, cercare di andare avanti per contenere quella che è una spirale incontrollata, quella metà di accordo non c'è stata. E cosa succede? Succede che a Washington abbiamo una situazione da serial televisivo, da Downton Abbey, da dramma shakespeariano, perché i personaggi a questo punto cominceranno ad affilare i coltelli dietro le quinte, anzi hanno già cominciato e hanno tre scadenze precise davanti e sanno che possono usare delle armi di ricatto. Vediamo prima le scadenze. La prima scadenza a fine febbraio: scadrà il tetto sul debito, dovrà essere rinnovato. I repubblicani hanno già detto che non rinnoveranno il tetto sul debito se non ci sarà un accordo per tagliare le spese sociali in America. Barack Obama resisterà. Il pericolo a quel punto non è più di scivolare in un precipizio, il pericolo è quello della bancarotta americana, perché il tesoro non potrà più andare sul mercato e emettere delle obbligazioni, dei titoli che gli consentiranno di finanziare appunto il suo debito, di pagare gli interessi, di finanziare quelli che sono i suoi impegni. Il 3 marzo, subito dopo, ci sarà l'applicazione dei tagli automatici della spesa, sempre che non ci sia un accordo prima, ma io non credo che ci sarà. 110 miliardi di dollari, questo significa che commesse governative saranno cancellate, aziende che hanno vinto queste commesse sono già lì sul chi va là e stanno cominciando a cercare di capire come potranno reagire. Si parla già di licenziamenti, magari licenziamenti anticipati. L'incertezza non aiuta, ma il pericolo vero ci sarà quando si supererà questa soglia, quando questi 110 miliardi di tagli diventeranno operativi across the board, cioè un po' dappertutto. Saranno dei tagli indiscriminati. Infine, quasi un mese dopo, il 27 marzo, ci sarà la necessità di rinnovare l'appropriazione di spesa prima della scadenza dell'anno fiscale americano al 30 settembre, e se non ci sarà questo rinnovo dell'appropriazione di spesa, a quel punto il governo americano chiuderà i battenti, perché non ci saranno autorizzazioni a erogare gli stipendi ai dipendenti statali. Come vedete, si tratta di una triade da far venire i brividi. Dunque la domanda legittima, direte voi, ma come mai questi mercati hanno reagito con tanto ottimismo se il futuro davanti a noi è così difficile? Hanno reagito con ottimismo perché intanto si è superato il primo ostacolo, e poi perché prima di arrivare al secondo ci saranno 2 mesi, perché come sappiamo si arriverà all'ultimo minuto dell'ultima ora prima di poter chiudere un accordo. Lo scenario possibile? Secondo me i repubblicani resisteranno fino all'ultimo. Questa volta non vorranno cedere Il presidente americano però ha un asso nella manica di cui non si parla, e cioè un'autorità che secondo alcuni giuristi è discutibile, però secondo altri invece è assolutamente legittima, l'autorità, vi dicevo, di scavalcare il Congresso e, in virtù di una legge che autorizza il presidente a difendere e a tutelare il credito americano sui mercati domestici e internazionali, potrà autorizzare direttamente, di nuovo, torno a dire, scavalcando il Congresso, la possibilità di tornare sul mercato e fare debito. Quindi il tetto sul debito, dirà il presidente americano, è fittizio. Qui conta di più la credibilità del paese, e dunque in base a questi poteri che mi sono concessi, poteri tra l'altro che risalgono al periodo della ricostruzione subito dopo la guerra civile, io questi poteri li invoco e li applico. Arriveremo a questo? Possibile, probabile. Di sicuro davanti a noi avremo altri 2 mesi di passione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, per la prima volta da quando la Nielsen ha cominciato le sue rilevazioni, cioè nel 1991, lo stesso album finisce in testa alla classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti per 2 anni di fila, nel 2011 e nel 2012. Qual è il disco? Il disco di Adele, titolo 21 di Adele, Set Fire to the Rain. I let it fall. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!